prima edizione. L'informazione del mattino. Prima di dare la linea alla viabilità, una notizia battuta nella notte dalle agenzie, una buona notizia per l'economia giapponese che segna una crescita del PIL dell'1% tra gennaio e marzo, terzo trimestre di fila di crescita dopo il post-sisma tsunami dell'11 marzo 2011, su base annua la crescita è del 4,1%. Dalla linea alla viabilità ci ritroviamo subito dopo per un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 18 minuti e 11 secondi, dunque andiamo a dare, insomma, abbiamo detto un'occhiata, naturalmente l'occhiata la do io e voi mi ascolterete mentre la do, un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, perché siamo in radio ovviamente. E veniamo dunque alle aperture, generalmente dedicate, si dividono tra la questione di Bossi, ossia l'indagine su Bossi, su Umberto Bossi e sui figli, l'accusa di truffa ai danni dello Stato e le frasi del Fondo Monetario Internazionale di ieri, i progressi dell'Italia, insomma gli segnali positivi appunto arrivati dal Fondo Monetario, con qualche eccezione, come per esempio Repubblica, la cui apertura è sull'indagine su Bossi, che dice truffa allo Stato, e però di taglio centrale la notizia economica è sulle imprese, lo Stato paga, arriva il piano sviluppo, e il Sole 24 Ore che sceglie un'apertura dedicata ai mercati. Allora partirei da qua, visto che insomma anche la giornata di ieri è stata una giornata decisamente nervosa, e il titolo è: la BCE soccorre Atene e i mercati, fuga di capitali dalla Grecia, rischio aiuti per la Spagna, lo spread tra BTP e Bund a 436 punti. C'è naturalmente anche un titolo dedicato alla Lega, Bossi e i figli indagati a Milano, truffa da 18 milioni, e il titolo del commento di prima pagina, dell'editoriale di prima pagina, firmato da Carlo Bastasin: signora Merkel, basta con i bluff. Entro i prossimi 7 giorni, dice Bastasin, la signora Merkel deve dire poche semplici parole. La Grecia sarà salvata. La fuga dei depositi dalle banche greche in corso ed è chiaramente l'ultimo passo verso il burrone. Forse, dice Bastasin, addirittura non ci sono 7 giorni a disposizione, quanto manca al vertice europeo del 23 maggio. Naturalmente il Sole non fa mancare un servizio, un richiamo in prima pagina per il Fondo Monetario Internazionale e la promozione per le riforme, fatti grandi progressi ora avanti sul lavoro e sulla crescita del PIL. Monti che dice non allentare la presa sul rigore, insomma lo avete sentito poco fa. E in arrivo i decreti sui pagamenti, commento a firma di Alessandro Leipold: il fondo approva e striglia, il Fondo Monetario, si dice chiaramente, chiaramente il riferimento è a quello. Infine vi segnaliamo dal Sole 24 Ore che oggi parte questa iniziativa, che è lo sportello Previdenza. Ogni settimana il Sole 24 Ore avrà questo sportello, ogni volta su un argomento diverso. La tua pensione, ci sarà un inserto con tutti i chiarimenti e alcune delle risposte sono date, in questo caso, ve lo abbiamo anche raccontato ieri, direttamente dal ministro del welfare Elsa Fornero. Veniamo al Corriere della Sera, dove l'apertura è su Bossi accusato di truffa, è il titolo in alto, non è il titolo più forte, perché quello più forte dal punto di vista del corpo, proprio del carattere, se così vogliamo dire, è quello che riguarda il Fondo Monetario Internazionale, però il titolo di apertura vero e proprio è su Bossi. Bossi è accusato di truffa, e poi c'è la parola che forse è stata la parola del giorno ieri e forse lo sarà anche oggi: paghetta di 5.000 euro ai figli. C'è un pezzo di Giuseppe Guastella sulle carte, e un commento, un racconto sul leader, a firma di Marco Cremonesi: la solitudine del senatore in via Bellerio. Da segnalare che in questa giornata, nella quale, come vi abbiamo raccontato, il Presidente del Consiglio Mario Monti sarà nella sede dell'Agenzia delle Entrate, incontrerà il direttore generale di Equitalia e presidente di Equitalia e direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Il Corriere presenta un pezzo a firma di Piero Stellino, un commento a firma di Piero Stellino, si intitola Fisco e cittadini, Equitalia, le tasse e la faccia dello Stato. Insomma, un invito anche tra l'altro a riflettere, una riflessione su perché Equitalia, l'organismo proposto alla riscossione delle imposte, sia sotto tiro. Dettagli sul piano antiterrorismo, 400 nuovi obiettivi, almeno 1500 soldati, come sentivate sarà presentato definitivamente oggi. E c'è una vicenda interessante che riguarda ancora quel che succede all'interno del Vaticano, le carte segrete sul tavolo del Papa, dai report diplomatici alle lettere di Boffo, l'inchiesta completa, dice il Corriere della Sera, domani su 7 sul loro settimanale, vedremo, perché se ne parla tra l'altro anche su Libero. La Repubblica, apertura e titolo forte in questo caso su Bossi, e il titolo invece che riguarda la Grecia è questo racconto di questo di questa cosiddetta bank run, di questa fuga dalle banche che sarebbe in corso. Grecia, corsa a ritirare i soldi in banca, paura Spagna, porte chiuse dai mercati. Ci si riferisce naturalmente alle notizie arrivate ieri di un massiccio uscita di denaro. Sono naturalmente solamente indiscrezioni, perché quel che ha scritto il Financial Times, citando fonti di banchieri. Come si diceva, titolo sullo Stato paga, finalmente lo Stato paga le imprese, dice La Repubblica, arriva il piano sviluppo, pronti i decreti che sbloccheranno i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, circa 60-70 miliardi di euro che le aziende reclamano. Il primo decreto prevede la creazione di un fondo di garanzia, più delicato il capitolo delle compensazioni con il fisco. Si parla anche del vertice Monti-Berlusconi e il no del Cavaliere sulla RAI e sulla corruzione, altro tema che naturalmente nella giornata di oggi farà discutere, è un retroscena a firma di Francesco Bei. Questo per quanto riguarda la Repubblica, la Stampa, appunto, anche qua l'apertura sulla truffa di 18 milioni allo Stato, Bossi e i due figli indagati, e c'è interessante, ci racconta a proposito della vicenda Bossi la Stampa, in un pezzo a firma di Giovanni Cerruti, Umberto Bossi che chiama Bobo Maroni, e quindi i due sono evidentemente in stretto contatto, e gli dice: Roberto, hai visto che roba? Questo il racconto che fa Giovanni Cerruti della telefonata di Bossi a Maroni. A fine mattinata, scrive Umberto Bossi, non sa che altro dire. Da 3 ore nella sua stanza di via Bellerio, solo con il suo sigaro e questo avviso di garanzia che non poteva non arrivare. Truffa ai danni dello Stato, appunto. Allora, vi vogliamo segnalare, oltre l'apertura della Stampa sul Fondo Monetario Internazionale e l'Italia sulla strada giusta, questo caso che viene raccontato da Mattia Feltri, la Sicilia assume 30 camminatori, avranno il compito di trasferire i documenti. Quindi, insomma, un caso evidente di spesa pubblica che va in fumo. Anche da segnalare un grande titolo su Cannes, da Hollywood alla conquista di Cannes, record di film americani in concorso, standing ovation per il capoclasse, perché così si è autodefinito, Nanni Moretti a Cannes. Il Messaggero, l'apertura su l'indagine su Bossi e i figli, anche qua titolo su Cannes che parte nel segno di Moretti e sul Fondo Monetario Internazionale, oltre che sulla fuga dei capitali o almeno della fuga dei capitali dalla Grecia, un titolo sulla Francia, nasce il governo francese, donne la metà dei ministri, e solo il Messaggero in realtà è tra i pochi giornali che mette in prima pagina una bella storia, ossia che Pierre Ducan, che è una sorta di guru delle diete, insomma molto se ne è parlato di questa dieta Ducan, insomma tra le 4-5 più famose, è stato radiato dall'ordine dei medici. Questo quel che ci riferisce il Messaggero in prima pagina. Vogliamo prima di andare a chiudere solo riportarvi un altro paio di giornali. Si diceva a proposito delle vicende vaticane, c'è Libero che decide di aprirci, veleni in Vaticano, le carte segrete del Papa, un libro di Nuzzi solleva il velo su una serie di vicende scabrose. C'è anche la lettera a Ratzinger nella quale Boffo accusa il direttore dell'Osservatore Romano per lo scandalo che lo ha travolto. Questo il titolo, con un commento naturalmente del direttore di Maurizio Belpietro, che parla naturalmente di questa vicenda e del libro, un nuovo libro in realtà in uscita di Nuzzi. Vi vogliamo segnalare tra le altre notizie che insomma non trovano spazio sugli altri giornali, anche il Manifesto, che titola. Il titolo è Franco Fortino. Perché? Perché migliaia di indignati sono arrivati a Francoforte per assediare la Banca Centrale Europea. Scrive il Manifesto: nella capitale finanziaria della Germania sgomberate le tende degli attivisti, riunioni spostate in tutta fretta, consiglia ai funzionari di vestirsi casual per mimetizzarsi al meglio. La protesta contro la crisi, scrive ancora il quotidiano, è arrivata nel cuore nero, così si legge, dell'Unione Europea. Altre due segnalazioni dal Fatto Quotidiano: la FIOM che denuncia, che dice Marchionne dimezza i contributi sindacali. Da Equitalia a Equifiat, scrive Luca Telese, ecco come per un brutto scherzo gli operai del più importante gruppo automobilistico italiano si ritrovano in busta paga la tassa Marchionne, un balzello antisindacato di ben 7,5 euro al mese, forse persino di più. Sarà naturalmente da approfondire e vedremo se arriveranno risposte da questo lato. È con questa notizia che con questa segnalazione che arriva dal Fatto Quotidiano che chiudiamo questa parte dedicata alla rassegna stampa. Ci ritroviamo tra un attimo con le notizie in breve. Prima edizione. 6:38 minuti e 28 secondi, il momento d'Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina a tutti. L'Italia in diretta, oggi è il 17 di maggio, la prima edizione di Italia in controluce, in studio e in redazione, Daniele Biacchesi. Travolta dagli scandali e dalla deriva interna, dove va dunque la Lega guidata da Roberto Maroni e Umberto Bossi? Siamo proprio sicuri che si metterà da parte. Il reportage di Maria Luisa Pezzali. Siamo tutti uniti dopo la pulizia, siamo compatti, la Lega torna, la Lega Nord, la potentissima. Cosa si aspetta dalle amministrative? Mi aspetto grandi risultati. A Lega Unita Day, 5 giorni prima del voto, Roberto Maroni si aspettava grandi risultati dalle amministrative 2012, risultati che invece non sono arrivati. Il carroccio è franato soprattutto al nord, come ha poi ammesso lo stesso ex ministro il giorno del verdetto. Abbiamo pagato un prezzo alle vicende che hanno avuto grande risalto sui giornali, questo è evidente, ma nonostante questo non solo la Lega è sopravvissuta, ma in alcuni posti ha avuto un buon successo e in altri un successo clamoroso, come a Verona. Ma il successo di Verona con la riconferma di Flavio Tosi non compensa una perdita di consensi che l'Istituto Cattaneo di Bologna ha messo nero su bianco. La Lega emerge dalla rielaborazione dei dati elettorali, ha perso la metà dei voti. Tanto più che Tosi, il ribelle minacciato di espulsione, nella roccaforte dei barbari sognanti, la corrente maroniana della Lega, è stato sospinto da quelle liste civiche che Bossi voleva bloccare. Verona, a parte il carroccio, crolla soprattutto in Lombardia, dove perde molti sindaci e perde molti luoghi simbolo, culla del movimento, soprattutto in provincia di Varese. Un crollo inconfutabile, colpa degli scandali, certo, ma anche di una promessa di cambiamento che i fatti ancora non dimostrano. Da Radio Padania, martedì 8 maggio. Ho sentito tanta gente che era convinta di votare il nostro candidato sindaco Legnano. Poi, quando è saltata fuori la storia di Bossi che vuole ricandidarsi, tanta gente probabilmente non è neanche andata a votare. Ce le hanno date perché la famiglia Bossi ci ha messo di tutto e di più per far sì che questo avvenga. Però dico, se avessimo fatto le riforme che dovevano essere fatte, che la base chiedeva, non saremmo arrivati a questo punto. Perdere Monza, cioè siamo fuori addirittura dal ballottaggio. Cioè ragazzi, qui la pulizia va fatta in modo serio. Sembra una barzelletta, cioè il figlio del segretario della Lega che prende una laurea fasulla a Tirana in Albania. Stop! Toccherà al congresso federale di fine giugno sancire la svolta della Lega. All'inizio dell'era Maroni, ormai candidato unico nella corsa alla segreteria dopo il lungo braccio di ferro con Bossi e l'ala a lui più vicina. In gioco c'è non solo la sopravvivenza del carroccio, ci dice Curzio Maltese, giornalista di Repubblica, autore di Viaggio nella crisi della Lega. È finita la Lega di Bossi, la nuova Lega è la Lega di Maroni e dei Veneti, probabilmente con questo anche una svolta politica, cioè dall'alleanza di ferro con Berlusconi alla prospettiva che Maroni più volte ha fatto balenare di una Lega come il Partito Catalano, cioè è in grado di trattare un po' con chiunque pur di ottenere, diciamo, la difesa degli interessi locali. Questa è l'ipotesi, diciamo, migliore di evoluzione della Lega, altrimenti è la disfatta. Era Italia in controluce, questo reportage più lungo lo sentirete alle 13.30 su Radio 24. Sono le 6.42 minuti e 42 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, dunque adesso andiamo a vedere che cosa sembra essere emerso o cosa è emerso dalle indiscrezioni naturalmente dell'audizione di Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, ieri in giunta per le autorizzazioni. Facciamo il punto con la nostra Cristina Carpinelli. Cristina, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, nella Margherita facevo semplicemente ciò che mi veniva detto, agivo su mandato dei dirigenti tutelando le varie componenti. Questo è uno dei passaggi di Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, durante l'audizione alla giunta dell'immunità di Palazzo Madama. È uno dei passaggi e non è certo quello più esplosivo. Secondo Lusi anche Renzi avrebbe preso dei soldi, testualmente dice: Renzi ha chiesto dei soldi, circa 100.000, anzi 120.000, suddivisi in 3 fatture, poi Rutelli mi ha chiesto di non pagargli la terza e così ho dato a Renzi solo 70.000 euro. Renzi è uno dei nomi di una lunga lista consegnata ieri all'interno di una memoria con numerosi allegati, memoria che Lusi ha detto di aver già consegnato ai magistrati. C'è anche la replica di Renzi su Facebook, una replica piuttosto ironica, dice di avermi dato dei soldi, 2 mesi fa erano 140.000 euro, oggi siamo scesi a 70.000, sarà la crisi. Questo quanto dice Renzi su Facebook. Lusi ieri ha detto anche di aver dato dei soldi a varie fondazioni, tra cui quella di Rutelli. A Enzo Bianco invece veniva fornito un mensile di 3.000 euro, poi passato a 5.500. Secondo Lusi anche a Rutelli venivano fornite delle cifre ingenti in occasione delle elezioni. In che modo venivano contabilizzate queste cifre? Gli hanno chiesto alcuni componenti della giunta e Lusi ha risposto: in modo da tutelare Rutelli. Ecco. Cristina, vogliamo anche ripercorrere brevissimamente in che condizione processuale è Lusi, insomma, da dove arriviamo? Sì, allora innanzitutto la moglie è agli arresti domiciliari, mentre su Luigi Lusi pende la richiesta di arresto della Procura di Roma. È indagato per appropriazione indebita in relazione all'ammanco di 13 milioni di euro dai fondi dei partiti. Stando a quanto accertato dal procuratore aggiunto Alberto Capenne dal PM Stefano Pesci, dei 60 milioni movimentati nei due conti del partito tra il 2007 e la fine del 2011, oltre 20 avrebbero destinatari al momento non chiaramente identificati. Quindi i magistrati vogliono capire se il senatore Lusi si sia appropriato di altre somme di denaro, oltre che di questi 13 milioni e mezzo spariti dalle casse del partito, e se parte dei fondi della Margherita sia finita a soggetti a cui non potevano essere destinati in base allo statuto del partito. Prima edizione. Sono le 6:46 minuti e 24 secondi. Dunque, tra poco verremo alla vicenda dei due fucilieri del San Marco, quelli, i due Marò detenuti in India. Prima però parliamo di questa. Oggi all'Auditorium Parco della Musica di Roma c'è l'assemblea di Coldiretti Giovani, impresa al titolo Giovani per l'Italia. Sono 2000 giovani agricoltori che arrivano da tutte le regioni. Viene presentata però anche una ricerca interessante. Allora saluto Vittorio San Giorgio, presidente appunto di Coldiretti Giovani Impresa. Buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, ci sono dei dati che voi avete fatto emergere con una ricerca oggi e che verrà presentata nella giornata di oggi, che danno un quadro abbastanza sconfortante sull'età media della classe dirigente italiana. Su che livelli siamo? Beh, diciamo che il dato che viene fuori è che siamo ad una età media vicino ai 60 anni, la più alta tra i paesi europei. Questo diciamo che potrebbe essere sconfortante se lo interpretiamo nell'unico modo in cui lo vogliamo leggere noi, cioè ovvero non ci spaventa oppure non va letto in chiave negativa il fatto che l'età della classe dirigente è alta. Il fatto è che questa classe dirigente si è un po' seduta e non sta provvedendo a quelle che sono le politiche e le riforme che servono ai giovani, e questa è la cosa che contestiamo e pertanto la leggiamo in maniera negativa. Per classe dirigente cosa intendete? Un po' tutto? Manager, politici? Sì, il lavoro che è stato fatto prendendo in considerazione le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, quelle sindacali, ma andando anche nelle istituzioni, nel governo, nel Parlamento, nel Senato, nelle università, è un dato che viene fuori prendendo in considerazione tutti i mondi che devono o dovrebbero contribuire a quella di rilancio dei giovani nel nostro paese. Grazie a Vittorio San Giorgio per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi. E noi adesso, come si diceva, ci occupiamo della vicenda dei due Marò detenuti in India. Ci sono un po' di aggiornamenti su spostamenti, ma anche dal punto di vista processuale. Katia Caramelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Le autorità del Kerala hanno infatti disposto nella notte il trasferimento dei Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dal carcere di Trivandrum, dove si trovano attualmente, ad un'altra struttura della città. Questo però avverrà solo tra 20 giorni, perché ufficialmente l'edificio che dovrà ospitarli va messo in regola. La decisione è arrivata allo scadere della settimana disposta dalla Corte Suprema di New Delhi al termine di una serie di riunioni anche con la delegazione italiana. Alcuni osservatori però fanno notare che questi tempi così lunghi, appunto 20 giorni per il trasferimento, sono dovuti al fatto che il 2 giugno si svolgerà in Kerala una elezione suppletiva e quindi il governo locale non ha voluto correre il rischio di dover far fronte a critiche politiche da parte dell'opposizione per questa misura che comunque viene considerata impopolare. Secondo il quotidiano The Time of India, inoltre, la speciale squadra della polizia del Kerala nel sud del paese che si occupa di questo caso domani presenterà anche al magistrato le accuse a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, 150 pagine contenenti gli indizi a carico dei due fucilieri italiani, e tra questi c'è la perizia balistica sulle armi sequestrate a bordo della petroliera Enrica Lexi, in cui sono stati identificati i fucili che avrebbero ucciso i due pescatori lo scorso 15 febbraio al largo della costa del Kerala. Quindi staremo a vedere come si evolve la situazione. Naturalmente vedremo. Grazie anche a Katia Caramelli, un ringraziamento a Diego Rovelli in redazione, Filippo Aureggi in regia, un un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, noi ci ritroviamo tra poco, meno di una decina di minuti, con il giornale radio.